c'era stato un accordo con la famosa stretta di mano tra Schlein e Meloni per un testo che veniva concentrato sull'espressione senza consenso, cioè è violenza una interazione sessuale che sia senza consenso di una delle due parti. Il nuovo testo presentato al Senato è diverso, ci si aspettava che lo stesso testo venisse passato al Senato, questo era l'accordo, e poi venisse approvato anche dal Senato. Invece, Buongiorno, al Senato ha cestinato il vecchio testo e ne ha elaborato uno nuovo. Per la verità in due versioni, l'ultimo testo ha due tipi di cambiamenti. Uno per quanto riguarda la formulazione, che non comprende più la parola consenso, ha voluto eliminare la parola consenso, ha utilizzato l'espressione contro la volontà di esprimere il proprio dissenso, quindi ha espunto questa parola consenso su cui si era costruito il patto rosa e lo ha sostituito. Seconda modifica è che ha alzato le pene, ma di molto, nel senso che ora la pena è da 6 a 12 anni e nell'ipotesi in cui ci sia violenza e minaccia, nell'ipotesi aggravata, da 7 a 13, quindi c'è anche un innalzamento di pene che continua a essere, come dire, un po' il registro degli interventi penalistici, soprattutto degli ultimi tempi, e non solo contro le donne, cioè nel senso che questo registro dell'aumentare le pene sembra essere la soluzione per tutti i problemi, e che è pessimo perché ovviamente questi aumenti di pena poi finiscono per riversarsi in confronti di tutti, insomma, dei dissidenti, dei cosiddetti nemici. Il passare da consenso a contro la volontà e dissenso, diciamo, un salto che sembra tornare indietro addirittura al vecchio codice degli anni 30, quindi era una sorta di modello, diciamo, della coercizione, no? Chiunque costringe con violenza e minaccia, ce lo siamo trascinato, l'abbiamo tuttora nel nostro codice, ce lo portiamo dietro dal 1930, non fu modificato nel 96, anche se allora tanti, anche la sottoscritta, proposero appunto di introdurre questo termine consenso e comunque di eliminare la coercizione, quindi di superare il modello coercitivo. Quello che sta passando in tutti gli stati è un modello invece di tipo consensuale, ed era per questo che si era coagulata, diciamo, una uniformità, un accordo politico di modifica legislativa in questo senso, quindi sposando un modello di tipo consensuale, il che non vuol dire che in qualche modo non crei problemi, perché ci vorrebbe del tempo, bisognava poi passati al Senato, poi anche al Senato ridiscutere, precisare, perché le parole in diritto penale hanno una loro pesantezza sia da sole sia per come vengono composte nella norma. Sulla parola consenso, giuristi e la riflessione teorica ha molto ragionato, a cominciare dalle sentenze nostre della Cassazione. Ci sono vari modi di declinare il consenso, un consenso puro, un consenso affermativo, c'è anche questo modello a cui si è ispirata Buongiorno, che è questo del contro la volontà, che è più simile a un modello tra quello tedesco e quello svedese. Quindi questa è la situazione che adesso si è creata. Le opposizioni hanno fatto muro, però al Senato, alla votazione in Commissione Giustizia al Senato, il nuovo testo è stato approvato. C'è stata anche una risollevazione dei movimenti delle donne, ci sono, cioè, proteste in corso, però di fatto hanno avuto, diciamo, al Senato i numeri per poter approvare questo testo. Così siamo un po' tornati indietro, perché obiettivamente non usare la parola consenso in un momento in cui anche la stessa Convenzione di Istanbul dice introducete una norma impostata sul consenso, quindi toglierla, significa un po' essere tornati indietro a 1930, che per aversi violenza occorre che sia stata esercitata violenza e minaccia. Qual era il difetto di questa vecchia definizione? Il difetto era che costringeva la donna a resistere, le imponeva di resistere, perché solo resistendo e portando sul suo corpo i segni anche fisici di una resistenza riusciva a dimostrare di avere subito una violenza di tipo fisico, cioè prevalentemente, no? Alzi il livello del rischio, e oltre a subire uno stupro corri il rischio di subire anche un femminicidio. Costringe la donna a un onere di resistenza, questa nuova formulazione fa venire meno queste paure che sono state paventate di strumentalizzazione, di denunce false che poi nessuno poi riesce a dimostrare, perché ce ne sarà qualcuno, ma c'è un numero come per tutti i reati, voglio dire, ma nessuno ha dimostrato che ci sia un problema quantitativo di questo genere. In realtà è solo una paura maschile. Prima menzionavi le mobilitazioni che ci saranno, che in impatto potrebbero avere? Perché la rete Dire ha indetto uno stato di agitazione permanente sul piano nazionale il 15 febbraio. Vedevo anche dai resoconti, no, del Senato, è un po' congelata la situazione, nel senso che non c'è una data di rinvio, però il gesto è stato approvato, quindi bisogna vedere quale forza si riesce a esprimere fuori. Certo, anche nell'assemblea sentivo dei riferimenti, diceva facciamo come abbiamo fatto per Pillon, per il progetto Pillon, creando una sinergia dentro e fuori il Parlamento e vediamo se riusciamo, come per Pillon, ad affossarlo. Bisogna considerare che la differenza oggi è maggioranza di governo e quella appunto di cui fa parte la Buongiorno, quindi diventa un po' un problema politico, si tratta di esprimere anche la massima forza fuori in collaborazione col dentro per vedere se si riesce a fermare.